200 persone provenienti da 50 città sono arrivate a Barcellona e per 3 giorni hanno parlato di diritto all'abitare. Attiviste e attivisti di realtà di base, sindacali auto-organizzate, per lo più dell'Europa e del Nord America, sono state convocate da Property and Democracy e dal sindacato degli inquilini della Catalogna e per 3 giorni hanno discusso di giustizia abitativa. Una congiunzione creata per cercare di affrontare un problema comune e sempre più urgente, ovvero l'impossibilità di accedere ad una casa. Barcellona è città simbolo in questo ambito, perché nonostante 8 anni di governo di una sindaca, Ada Colau, nata nei movimenti di lotta per l'abitare, la situazione in città è tremenda. E partiamo proprio dalla capitale catalana e dalle politiche pubbliche messe in atto in questi anni col racconto di Lucia Martín, responsabile delle politiche abitative per En Comú, il partito di Ada Colau, ex sindaca della città. Per 8 anni abbiamo governato la città. E posso dire che sul tema sono stati anni ambivalenti, perché se abbiamo attuato politiche abitative che non si erano mai viste, dove la direzione era quella prima di noi che vedeva nell'alloggio solo una merce e una fonte di speculazione, e noi abbiamo cercato invece di garantire che la casa fosse un diritto, e così abbiamo prodotto una moltitudine di politiche, e posso anche dire che siamo riusciti ad ampliare il parco degli affitti governati dal pubblico e abbiamo posto politiche risolute, coraggiose, per limitare speculatori, costruttori e proprietari che negli anni hanno fatto degli abusi immobiliari la norma. Abbiamo anche prodotto politiche innovative che hanno rallentato sfratti e cose del genere. Allo stesso tempo a Barcellona esiste una violazione sistemica del diritto alla casa e all'abitare, anche perché negli 8 anni del nostro governo siamo stati lasciati sole e sole, e le politiche abitative non dipendono solo dal comune. Oltre tutto questo, queste politiche subiscono fenomeni globali come quello della speculazione, e così quello che viviamo oggi è un aumento costante degli affitti, un aumento che non siamo riusciti a bloccare, così come la turistificazione della città. Ada Colau ha militato per anni dentro la PA, la piattaforma per le vittime dei mutui. Oggi la portavoce è Lucia Delgado, tra le partecipanti all'incontro internazionale che si è svolto dal 4 al 6 aprile. E ai nostri microfoni racconta. Madrid, Valencia, sì. O sea, in generale si dà bastante in la turistificazione che si vede anche a Madrid o a Valencia ed in generale in tutte le grandi città. Ma devo dire che dove la turistificazione è più impattante oggi è alle Baleari, a Mallorca o a Ibiza. Fondamentalmente la gente deve andarsene. Nemmeno alcuni medici che lavorano lì sono in grado di pagarsi l'affitto. È davvero assurdo. Abbiamo iniziato il nostro lavoro attorno alla questione mutui nel 2009, ma nel 2013 in poi a Barcellona la questione ipotecaria si è fatta più debole, anche grazie al grande lavoro dei movimenti sociali. Ma ci siamo scontrati con la crescente problematica dell'affitto e così abbiamo modificato il nostro intervento, organizzando e consigliando persone su questo tema. Poi dal 2015-2016 hanno iniziato a venire da noi persone che occupavano, perché le problematiche legate alla casa si sono allargate invece che risolversi, tanto che ora è praticamente impossibile accedere ad un mutuo, perché serve avere molti soldi da parte per l'anticipo e poi non è scontato che le banche lo concedano per i tassi di interesse. Ma allo stesso tempo è difficile prendere una casa in affitto, perché oltre a dover garantire di avere uno stipendio fisso, questo stipendio deve essere alto, visto che l'affitto medio in città è di 1.100 euro al mese. Tienes que tener un sueldo fijo, además bastante boyante para vivir en una ciudad como Barcelona cuando el precio medio es de 1.100 euros. Parlare del diritto all'abitare nel convegno di Barcellona è arrivata anche una folta delegazione da Madrid. Tra loro c'è Valeria Racu, del sindacato degli inquilini della capitale di Spagna. Dobbiamo riconoscere che il capitalismo è cambiato e che oggi il modo in cui veniamo espropriati, espulsi, dimenticati e dominati non si basa più su un padrone e sul lavoro. Il capitalismo ha invaso sfruttandoci tutti gli ambiti della vita, della cura e ogni forma di riproduzione sociale. Così oggi il tema della casa diventa fondamentale ed è una delle forme di sfruttamento e di espropriazione che soffriamo. È anche una delle questioni che mette in discussione la possibilità di avere una vita degna. Questo però non sta succedendo solo in Europa, ma sta succedendo in tutto il mondo. è stato Enric Aragonès, portavoce del sindacato degli inquilini della Catalunya, a chiudere la 3 giorni di confronto sul diritto all'abitare di Barcellona e ai nostri microfoni ha detto: credo che sia molto importante aver avuto questo spazio per condividere strumenti, storie, esperienze, ma anche per rendersi conto che condividiamo una lotta comune, che dobbiamo condividere anche obiettivi, perché il capitale e chi specula sull'abitare si organizza a livello internazionale. Quindi è logico, come risposta, che le lotte degli inquilini si debbano organizzare a loro volta. Possiamo anche imparare molto gli uni dagli altri, ma dobbiamo anche fare le cose insieme. Se ci sono fondi speculativi che sono globali e si trovano in paesi diversi, perché non dovremmo organizzare azioni di protesta a livello internazionale?